America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Oggi Labor Day, festa del lavoro, l'ultimo lungo weekend dell'estate. Dunque mercati chiusi, banche chiuse, l'America è tranquilla. Obama invece è preoccupato proprio dal mercato del lavoro che non decolla e dall'economia che di conseguenza resta stagnante. Dunque oggi il presidente, per onorare i lavoratori, andrà a Milwaukee, nel Midwest, nel Wisconsin per essere più precisi, e pronuncerà un importante discorso sull'economia, un'anteprima poi di quello che pronuncerà mercoledì prossimo, di nuovo sul rilancio della crescita e di una economia che si ostina a ristagnare. Ma veniamo a questo Labor Day, perché oggi l'America, vi dicevo, è in vacanza proprio per celebrare questa festa. Ecco, quel che noi celebriamo il primo maggio, l'America, per non dare credito al socialismo, all'internazionale socialista, decise alla fine del secolo scorso, anzi dell'Ottocento, sotto la leadership del presidente Grover Cleveland, di celebrarla come festa nazionale ogni anno, però il primo lunedì di settembre. Perché? Beh, perché già la prima festa, in realtà organizzata poi dai sindacati, si tenne il 5 settembre 1882 a New York. Allora era stata una cosa piccola, locale, organizzata dai sindacati della città. Poi divenne festa nazionale dal 1894, proprio su richiesta di Cleveland, che voleva riconciliarsi con le associazioni dei lavoratori e con i sindacati, voleva rendere omaggio soprattutto ai lavoratori morti durante lo sciopero di Pullman in Illinois, che fu una brutta storia. E come succede, dietro ogni fatto di cronaca c'è sempre poi una dinamica interessante. Intanto cominciamo dal nome Pullman. Beh sì, è proprio il nome che noi diamo ai Pullman, agli autobus, e viene proprio da lì, perché Pullman era una cittadina dell'Illinois poco fuori Chicago, fondata dalla società omonima che era stata costituita dal signor George Pullman, che doveva costruire carrozze per i treni. Il signor Pullman divenne uno degli uomini più ricchi d'America, la sua città era una città aziendale e le carrozze Pullman appunto divennero poi sinonimo di trasporto. Il nome fu esteso agli autobus, così oggi quando diciamo hai preso il Pullman, beh, mi domando quanti davvero sanno che cosa c'è dietro questo marchio e questa storia. Comunque la storia comincia con una crisi economica, proprio come quella che abbiamo visto noi negli anni scorsi, molto difficile. Ci fu il cosiddetto panico del 1893, in quel caso non c'era il subprime, ma c'era il boom delle ferrovie, e quindi le ferrovie entrano in crisi proprio per la debolezza economica. Pullman prende ordini, perde quattrini, decide di ristrutturare, un downsizing, come si direbbe oggi. A quel punto esplode un conflitto nazionale fra capitali e sindacati, e il boicottaggio riguarda proprio le carrozze Pullman. 125.000 lavoratori del sistema ferroviario americano rifiutano di lavorare, ci sono carrozze Pullman nei treni. Il presidente Cleveland ovviamente si preoccupa, e in quei tempi, se c'erano problemi con i sindacati, beh, si mandava l'esercito, e così fece il presidente americano. Risultato: 13 persone uccise, 57 feriti. Ecco, questo è il contesto d'insieme in cui poi matura la decisione di Cleveland, e cioè quella di istituire una festa nazionale del lavoro, con la certezza però che non ci fosse alcun collegamento con il primo maggio. Da allora le cose sono rimaste sempre le stesse: sempre il primo lunedì di settembre c'è la festa del lavoro, con un significato aggiuntivo, diventa anche la festa con cui si chiude l'estate. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Una vecchia canzone dei Beach Boys, quella che avete sentito, Good Vibration, un classico nostalgico, così come può essere nostalgico l'ultimo giorno dell'estate qui in America, nel senso tecnico del termine. Oggi la gente è ancora al mare, on the beach, in spiaggia. Tra l'altro vi segnalo che una spiaggia di Long Island, la Cooper's Beach, è stata nominata come la miglior, la più bella spiaggia americana. Dunque, se passate da New York e a un paio d'ore di New York, a Long Island, agli Hamptons, questa località di cui ogni tanto vi parlo. Gli americani, dicevo, da qui, da Long Island, dagli Hamptons, ma un po' da tutte le località estive, si preparano a tornare a casa. Gli ultimi parties, gli ultimi barbecues, gli addii. Proprio qui agli Hamptons, a East Hampton in particolare, sono stato a uno di questi parties, un posto meraviglioso, devo dire, su Georgica Pond, un laghetto che arriva fino a una striscia di sabbia che poi divide il pond, appunto il laghetto, dall'oceano Atlantico. I colori ieri erano da sogno, aria pulita, limpida dopo l'uragano Earl, che per fortuna è stato molto meno violento delle attese. E chi ha le case su questo pond può usare soltanto un certo tipo di barchetta a vela, non grande ma caratteristica, in legno, con una vela a quadrilatero che consente dalle case, direttamente dal pontile che è in queste case che si affacciano sul pond, di andare in barchetta a vela su questa spiaggia e poi fare il bagno all'oceano. Ieri è stata, diciamo, l'ultima occasione. A questa festa 500 hamburgers, 500 hot dogs, rum punch, sangria, drink, robusti di ogni genere, e così questa piccola comunità americana ha dato anche lei l'addio all'estate per tornare alla realtà del giorno per giorno. Figli a scuola, il lavoro riprende anche qui, come in Italia, come in Europa, almeno per quelli che non sono fra i 9 milioni di disoccupati in questo paese. Well, I just had an excellent conversation with Ecco, vi dicevo che Obama parlerà fra poche ore a Milwaukee, in Wisconsin, nel cuore dell'America, e cercherà di rilanciare l'economia attraverso un nuovo piano di stimoli. Chiederà agevolazioni fiscali per le aziende, ad esempio, che sviluppano ricerca e altri stimoli. Farà un discorso un po' più generico. A metà settimana avremo maggiori dettagli. Si dice che il pacchetto di stimoli chiesto da Obama sarà fra i 40 e i 50 miliardi di dollari. Insomma, se sarà così, non si tratterà di una cifra risolutiva, se pensiamo che ben 787 miliardi di dollari finora non sono riusciti a smuovere l'America che non funziona. È vero, venerdì c'è stato un dato che i mercati hanno accolto così, con un po' di ottimismo, migliorato leggermente il tasso di disoccupazione per la componente di nuovi lavori offerti dal settore privato, circa 60.000. Io torno a dire, secondo me poca roba. L'America dovrebbe a questo punto macinare 300-400.000 nuovi posti di lavoro, non lo fa. Per questo c'è ancora un po' di preoccupazione in giro, e alla fine temo che questo nuovo progetto di Obama abbia soprattutto un target, un obiettivo preciso, e cioè quello di rialzare il capo prima delle elezioni di novembre. Per ciò che riguarda l'impatto sull'economia, beh, insomma, mi resta qualche dubbio. Per finire, di cosa si è appassionata l'America in questo fine settimana? Beh, di una signora coreana di 69 anni che si chiama Cha Sa-sun e abita in un villaggio sperduto nelle montagne, non lontanissimo da Seoul. Bene, dopo 5 anni di tentativi, 2 o 3 volte al giorno alla settimana, ebbene, dopo 5 anni di tentativi, prima tutti i giorni della settimana, 5 giorni su 7, poi 2 o 3 volte alla settimana, per un totale di 960 bocciature, questa signora ha finalmente passato l'esame e ha preso nei giorni scorsi la patente di guida. Beh, è stata la prima storia di molti siti internet americani, incluso quello del New York Times. Beh, come mai? Per curiosità, per simpatia? Forse, ma credo soprattutto perché questa dimostrazione di tenacia, decisione e il conseguente lieto fine sono gli ingredienti di cui ha bisogno l'America, che festeggia questa giornata del lavoro con il più alto tasso di disoccupazione in alcuni decenni. Siamo poco sotto il 10%.